sostanza appena appena un punto dopo il crash, che scantona le marche dell'apprezzamento. Un accarezzamento lieve, lievita in superficie, che appena appena un canto, un lamento, che un tocco da dentro, fuori, qui. Accuratamente scrinata, stretta di imbragature, è lì che smore fuori le morte. Ma Cuba!